vai a Capri2 e trovate a posto. E va. Allora, glielo potete anche dare. Oppure devi fare un altro scambio con lui, con qualche altro vintage. E devi andare a una cattassa. Ma c'è anche una bruciatura nel poco a poco si vede da lì. Peccato. È un po' nuovo questo baracchino. Sì. È un proprio un peccato questo apparecchio. Dimmi. Sento me cosa ha detto il Simba, ma base sì, va bene la radio, però non prenderti tutti, tanto di questi vintoli base ne hai già qualcuno, no? Non prenderti tutto questo, prenditi anche magari qualcosina di più, come posso dirti, tipo Galaxy Saturn Echo, una cosa anche un pochettino più moderna. Che tanto di queste basi ne hai già 3 o 4, così è. Quindi vedi, ti puoi prendere un Galaxy, che quello è a corrente sempre a 220, non hai bisogno di alimentatore, capito? È una bella radio. C'è il Galaxy Saturn, capito? Saturn. C'è anche il Turbo, che quello c'ha qualche memoria, c'ha, fa 25-30 o 32 forse anche addirittura arriva, adesso mi ricordo se 30 o 32, c'ha 100 watt. Ho capito, spero che è arrivato un messaggio vocale che lo guardo. No. Sì, sarà, vabbè, è un radio così, non è che mi piace molto. No, io non ho capito chi era ieri notte, mi sono dimenticato il baracchino acceso. Alle 2 di notte, c'è nessuno fischiando. Alle 2 di notte, boh. Ma dici, altro tram, alle 2 di notte, chi ci può essere alle 2 di notte? Ho capito, ma che c'è un QSO, ci sta, va, ma chi può affrusciare alle 2 di notte? stavo ascoltando un pugno, gli altri, sì. Ci ha lasciato il baracchino acceso. Alle 2 di notte, grazie, non le trovo il barino radio. Ma sono addormentato, Massimiliano, ma presto, eh. Ero cotto ieri, mamma mia, cotto. Ce la faccio un più. E senti, poi era squarciato, no? Poi ho fatto lo squarci. Ho sentito prima fischiare, c'è nessuno? E fischiava. E tra le 2 di notte. Vabbè, tu già avrai capito chi è. Non so chi è, Non mi occupo, ho più lo giacci lì. Forse male, qualcuno ci va a dormire adesso. E che ne sei? Ho detto una bella giornata oggi, va. Sembra che promette bene. i britti sono smettere del pace. Sono uguale. Cosa lo? Ho detto che sembra uguale al 48, ma al ad iPhone, come grandezza. No, guarda su Facebook, scrivi Filippo Aleo. Filippo Aleo? Sì, Aleo, Aleo. Aspetta. Mi sembra che non è la roba di Smith, così quello. Ma tu ce l'hai come amico? Boh, aspetta. No, mi sa di no, gli amici in comune c'è Luca Flipper e Giovanni non originale. Ma si mandano l'amicizia. Senza mandargli l'amicizia, manda un messaggio su Messenger e scrivi se c'ha, come si chiama, se c'ha Smitter per Tornado e roba così. Non avrei bisogno di mandare tutti l'amicizia. Questo vende anche roba di 440, 140, pezzi, filtri, schede, cose così. Vabbè, siccome quello che tu mi mandi un messaggio non gli arriva subito, cioè se manda l'amicizia gli arriva subito e così poi vede subito il messaggio, no? Dimmi. Io sto usando un magnum e se non fa. Ma già va bene la voglia. Vabbè, esce un po' più forte con questo del portatile. Lascia questo, va bene, Erika. Adesso ti organizzi una stazioncina piccolina anche da tua nonna lì. Sai cosa puoi fare? Puoi metterci quella Gran Play che hai comprato. Quella va bene. Quella la metti su un tubo sul tetto, fai scendere il cavo. O come in palazzo, sì. E allora ti puoi organizzare una boomerang lì da balcone e va bene. Fare anche così e va bene, lì ti porti un alimentatore e una radio, così quando capita che vai lì non stai lì a portarti il radio, penso c'è tutto lì e via. Adesso quelle due radio te le lasci lì da tua nonna, così quando ritorni ce li hai già lì, non stai a portartele via. Però quello dentro casa ci metti, quando sei su a casa tua ci metti quelle radio più importanti, capito? Perché ti ripeto, così all'aperto non è che sia l'ideale, anche per qualche topolino può entrare, ti mangia qualcosina e non è che fa molto bene, capito? Lì ti puoi tenere qualche baracchinetto così, più vecchiotto, là, diciamo così. E dentro casa ti metti la cosa più importante. Se metti un cavo buono, un 213, un H1000, 35 metri non sono niente, non fanno nulla, capito? Se si mette un commutatorino lì nel garage, quando sei dentro casa lo commetti per dentro casa, capito? Oppure viceversa, da dentro casa al garage, quando devi andare a modulare nel garage, da dentro casa ti commuti l'antenna lì e moduli da dentro casa, dal garage. Quando sei dentro casa giri il commutatore e moduli dall'interno della casa. Cosa vuol dire siano 35 metri di cavo? Non so niente. Se non ne avevi via cavata. Sì, mi ha sentito. Vabbè, ho tornato a dire che stavo parlando insieme a Massimiliano. Gli ho detto, Massimiliano, a Riccardino poco fa, che i più giovani siamo io e tu in frequenza. Gli altri sono tutti vecchi. È vero. Vabbè, a parte Riccardino, comunque più giovani siamo noi due. Gli altri, Riccardino è vecchio, Claudio è vecchio, tutti gli altri sono vecchi. Gianni Doppio Room, Roberto Quadrato. No, Roberto Quadrato non ce l'ha tanto in frequenza. No, vecchi di età, parlo di età, età. No, i più giovani sono Riccardino e io. Poi non lo so chi tu Fabio, chi tu Cristian, boh, non so se t'abbiano. C'è Fabio, è vero, c'è l'età nostra Fabio. Poi tutti gli altri sono vecchi, Natalino, Gianni Doppio Room, Claudio, Walter, Fabrizio. Vabbè, Fabrizio non è vecchio, là. Insomma lì, è 50 anche lui. Antonello c'ha 78 anni. Pomponio ha 78 anni. Tu sei giovane, ma rivisci, tutto storto, Non ci credere, sono bugiardi, mi, quello che c'ha anche la barba bianca. No, già la c'ho la barba bianca, quella di Rosi. Ricottina, sì. Siamo noi, là. Io specialmente più giovane di tutti. C'è anche Giulio che c'è tanti anni in frequenza. Il più giovane sono io e Bu. Gli altri sono tutti vecchi. Non ci credere. Quello che ha la barba bianca pure è mi. Massimiliano già è più giovane di Luca. Sì, cazzo, di un anno. Io li dimostro tutti gli anni che ho, Già anche se ho tutti gli acciacchi che ho, comunque li dimostro, là. Massimiliano comunque va bene lo Smith, Mi sa che lo stacco, la barba anche non funziona, mi rubo con l'iPhone. Visto là, poi non è vero che è cuomane. Se non lo usi fai così, Luca lì. Se non lo usi fai così, ma non rovinare una radio così per metterti lo Smith di là, capito? Prima senti questo qua e vedi un po' cosa ne vuole di uno smitterino. Certo, la radio non funziona, guarda, l'ha controllato un tipo di Cagliari che aveva parlato di Gino Vulcano, ma non si poteva fare niente. E allora lo smitter del Typhoon lo metti lì, in quel patch. Lo smitter lo metti là. Cavadamo. Stata lì, comunque già si può andare, dai, a smontarla questa antenna. Prendi la moneta là sotto, in come sta tagliata, piano piano fa la rasura. Non ha più babà la ricottina, ma c'è un fumo. Adesso ci hai pensato. No, neanche io fumo. Dove c'è la barba per la ricottina? Ma bianca, sì. D'accordo, dai, non ce l'ho più 30 anni o 20 anni. No, io ti ho detto di battuta perché ti ho detto ce l'ho gialla e io ti ho aggiunto dalla ricottina. Maledetto. E poi non è vero che è cuocomane. Sei anche cuocomane, tu non te lo dimenticare, mi, oltre che vecchio. Lo so. Poi tu sei più fumendi, sì, no? Mo. Beh, non ti basta ancora, no? Sega, non ce la faccio a smettere, Massimiliano, se no avrei smesso. Sono sempre stressato, sempre. Poi ti provano la sigaretta elettronica, come se risparmi qualcosa. Senti un paesino d'abbacco. Ce l'ho la sigaretta elettronica, è lì buttata, nuova, che se ne sta ridendo. Buona volontà ci vuole, io l'ho presa per gioco e adesso, vabbè, io ho smesso già 2 o 3 volte, adesso ho già 5 anni che non la tocco più, ma no, a me mi fa tipo più schifo. Sì, anche io ho smesso 2 o 3 volte. Forza di volontà ci vuole. Dimmi, un ruccio di garruba è come se non si gara. Non ci ricubro. Mill'altro cuoco, Maremi. Ma che fa male fumare, ma no, cioè, non te ne accorgi subito, col tempo. Perché si accumula, capito? Io lo credo sempre male, ovvero qua, sempre male. Quando fumavo io sempre ansioso. Respiravo male, poi quando lavoravo sempre stanco, per carità, no, va. 12 anni, chi se ne frega, sì, ho messo 20 kg sopra, A chi prima pario, se mi vuoi in di una sera, ma lui che vogliamo fare una mountain bike. Con la molla al centro, così? No, senza molla. No, fa male fumare, a parte gli scherzi, pure ognuno è libero. Adesso che ha detto mio fratello non aveva smesso di fumare, Silvana mi ha qua così, mi punto in bianco, sono già 8 anni, vai, non fumare in più. Ho preso la sigaretta elettronica, ma quella gli piaceva più. Speriamo al buluissa. Lo stesso, mia moglie fumava lo stesso, adesso boh, 20 anni non fumo più, 18, 20 anni. Caetta, no, no, meglio niente. A me piace fumare, la verità, piaceva fumare, quindi non è che la sto odiando, però adesso quando ti avvicini, cioè, qualcuno che si avvicina gli ha appena fumato va un fiaco buzzinoso in alto si butta, pucci. No, no, no, no, io prima quando fumavo queste cose non me ne accorgevo, ma adesso appena uno fuma te ne accorgi subito. Vedi, a quelli che gli dà fastidio riescono a smettere del tutto proprio, e è che a me non mi dà neanche fastidio. No, non è il fatto del fastidio, no, il fatto è che adesso per esempio no, tu fumi, io quando mi avvicino a te lo sento subito l'odore che è della sigaretta, mi capito, non è che mi dà, io quando fumavo non me ne accorgevo, ma va già te ne avvisi, quando smetti già te ne accorgi. Infatti, già è vero quello. Vai Riccardi, riprendi. Tu non ti prendi il vizio a fumare? Sì, registrato. Sì, bravo, bravo. Non prendi il vizio a fumare. Avanti, Black. Ciao, sono Fabrizio. Sto provando un attimino e volevo vedere come stava andando la radio di questo baracchino. Barattolosa, Fabrizio. No, che sia barattolosa non è un problema, perché quello può essere il microfono. Era quel barattino che usciva a Saturno, quello di Tino. Ah, ok, ok. E avanti come si? Tutto chiuso, metà, tutto aperto? No, quello che volevo, a parte che perché in questo presidente lo scuole ci si apre dopo un po', è strano. Diciamo che non è proprio al 100%, comunque è abbastanza buona, là. Non è come prima Satura. Ascolta, guarda così, dimmi se io diminuisco un attimino, posso toccare un paio di parametri. In questa maniera è cambiato qualcosa? Sì, ha migliorato la radio. No, non ti sei... perché mi si apre lo squelce in ritardo in questa radio? Questo non te lo so dire, però quando hai toccato hai migliorato la radio. Ascolta, adesso in questo passaggio, prima di riprendere, aspetta qualche secondo, come ti sembra, va meglio la radio? Sì, è buona, dai, è buona. Questa era quella che usciva male, a parte che mi ha bruciato un paio di altoparlanti, non ho capito il motivo. Boh, strano, strano, adesso sta uscendo bene, non sta saturando. Natalino, tu come lo ascolti? Bene, non sta saturando adesso. Sì, ti ascolta, ascolta, dimmi una cosa, chi è che riesce a vedere i picchi, se sono positivi o negativi? Aspetta un attimo, Fabrizio, accendo l'altro. Guarda, io voglio provare a aumentare la potenza, così questo è quasi a posto, c'è solo questo problema che entra lo squelch in ritardo. Dove è la commutazione? Prova, Fabrizio, a vedere se è positivo o negativo, vai. Allora, guarda, in questo passaggio, aspetta qualche secondo prima di riprendere, che non mi sia per lo squelch, devo controllare il perché. Comunque sei positivo, Aspetta un secondino, guarda, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Sì, positivo, positivo, sì. Aspetta un attimo, guarda in quest'altro passaggio invece come lo vedi, se lo vedi positivo o negativo. Prova a fare un fischio, Fabri, prova a fischiare. Guarda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aspetta un attimino prima di riprendere. No, fischia, se no non me ne accorgo, sei talmente forte che non me ne accorgo, vai. Positivo. Sì, è positivo anche qua, dai, tutti e due passaggi. Anche da me, Fabri, sì, positivo. Quindi mi confesso, va bene, sto baracchino, se non riesco a capire, un problema dietro l'altro sta andando. palle, perché magari c'è qualche funzione. Chi è che lo conosce questo presidente, presidente Lincoln o Jackson Lincoln? Mi Natalino ce ne aveva uno, Natalino. Ma a me quei difetti non me li faceva, andava benissimo quello che avevo io. Ok, dai Riccardino, riprendi. Oh, non lo so, io non ne ho mai avuto Fabri di qui, presidente Lincoln, quindi non te lo so, non ti so dire niente su quella radio. Ma quanti, ho capito, adesso c'è lo squelcio automatico, quanti fatti deve erogare questa radio? Non lo so, penso comunque una trentina, credo, no, così è Natale. Una ventina penso, ne aveva il mio. Ma 20 in AM o come? Sì, c'è la potenza regolabile. Allora, aspetta, lo porto, gli regolo in watt e poi rientro per vedere se c'ho picchi positivi. Ok, va bene. Ok, vai Lucaria. Ehi, allora, che sono qua, facciamo un po' di saldature, arrivo subito. Scusatemi, che poi tanto, che la sua mamma già è presto ancora, arrivo la prossima stagione e mezzo, la mia 25 a prendermi. Sì, andava, va bene. Ma aspetta, da te, però quella radio, penso che debba dare di più di 20 watt. Mi pare che quella radio arriva anche a 30 o 40 pure, se non sbaglio. Sì, lo so, però vuole modificata, io penso che normale dovrebbe dare sui 20 watt. Io mi ricordo perché mi sembra di aver sentito proprio a Tino l'altro giorno che mi pare che stava dando intorno a 30, 40 watt, una cosa così, mi sembra aver capito e non voglio insistere. La mia mi sa che ne dava 20, capito? Se ne dà di più vuol dire che l'hanno tirata di più, non lo so, forse aveva i finali diversi dalla mia. No, vabbè, guarda adesso che l'ho sollevato un pochettino, se sono sempre in positivo e se la radio va bene. Da me sei positivo. Positivo e va bene anche la radio. Ehi. Sì? Sì. Fabri. Sì, va bene. Prova Fabri. Guarda un attimino. Adesso l'RF Power l'ho messo a metà. Sì, sì, è positivo comunque come picco di modulazione, sì, in positivo. E la modulazione come poco fa? Sì, è buona, va bene così. Però non mi piace lo squelce di questa radio, lo sai. Ma perché, cosa fa? Non so come funziona, è in automatico. Vediamo un attimino, sembra che prima che sia proprio che schiaccio, che mollo la portante ci metto un pochettino. Ma perché quando riprendono gli altri non ascolti subito? Mi sembra di no, soprattutto quando poi trasmetto io. Questo non te lo so dire, non credo che comunque abbia lo squelcio automatico con la radio, credo che sia normale, classico come tutte. No, c'è anche automatico. Magari è inserito automatico adesso. No, adesso l'ho anche tolto, eppure sembrerebbe che rimane in non in otto, rimane aperto, però sembra che c'è qualche funzione, io non la conosco questa cosa, non penso che abbia nessun problema. Sì, Riccardi, dimmi. E cosa ti hanno detto? Sì, hai capito Fabri, ieri gli ho detto a Riccardino a chiamare a Cagliari per vedere per quel microfono, no? Perché qui a Sassari gli hanno detto che ci vuole un mese e mezzo a ritornare il microfono in mano a lui. E gli ho detto chiama a Cagliari e vedi un po' se glielo stanno mandando. Ha chiamato poco fa, dice non ne sanno niente. Ma secondo me fatti restituire i soldi e fregatene. Se c'hai dei problemi li dai a me i soldi, te lo ordino da eBay, allora se è nuovo senza problemi, poi se ci sono problemi io li spedisco indietro, se vuoi li dai a me i soldi, mi fa una ricarica, te lo ordino io nuovo, però la scatola è tutto, no, cagato come era quello. Allora, ho detto, se vuoi dai i soldi a me o ti do i miei dati, mi fai una ricarica, te lo dirò da eBay, lo paghi qualcosa di più, ma sei sicuro che è un microfono nuovo di pacca. Riccardino, sai cosa fai? Ti fa restituire i soldi e te li aggiungi a comprarti quell'altra antenna che ti devi prendere. E tanto i microfoni ce li hai. Ok, va bene. Fabri, mi serve un'informazione da te. Dimmi. Allora, io ho una radio della Magnum, che c'ha in poche parole lo spinotto a sei punte, però io l'ho aperto e dietro questo spinotto c'è attaccata una schedina con delle lenticchie, roba così. Se io lo prendo a 4, bisogna prenderlo con questa schedina oppure questa schedina va staccata e agganciata in quella a 4? No, aspetta, non ti stavo seguendo, che avevo la testa immersa in un'altra cosa. L'ha preso una schedina, ripeti. Allora, lo spinottino dove tu inserisci il microfono della radio, io ho una radio a 6 punte, ok? Dietro questa, diciamo, quando tu apri la radio, dietro questo spinottino c'ha una scheda attaccata con delle lenticchie. Se io dovessi cambiarlo a 4 quello, quella schedina va staccata e attaccata in quella 4. Se devi, se metti lo spinotto al 4 devi rifare tutto come nello schema, eh? Ah boh, non ne so allora, no. Non ne so. Quando sarai libero me lo controlli tu allora, no. Vediamo, questo c'è un altro problema, sembrava a posto, apparente invece cuoce anche gli altoparlanti. Cuoce gli altoparlanti, ma il suo non ce l'ha? Sì, l'ha bruciato, ne ho messo un altro e ne ha bruciato. No, adesso c'ho questo per il più grosso, però è caldo, non me l'ha mai capitato una cosa del genere. Non è che ci vorrà qualche condensatore, qualcosa? No, so, bisogna riseguire mentre il circuito, ne ho voglia, perdono tante di quelle ore e non ne ho più tempo, ne sto facendo mille cose. Volevo andare da Walter, sono già in ritardo di un'ora. E mollalo, vai da Walter e poi quando c'è ce lo rimetti in mano, va. Una buona, ci sentiamo dopo. Cappa, anda bene. Ok, va bene. Quindi, come se non mi è rimasto d'accordo, Riccardi? Quello originale, quello originale dell'MB più 4. No, è grigio e nero quello che c'ho io. Ed è nuovo nuovo, è in scatola. Non lo sto usando quello. Lo so, io te lo do 50, te lo stavo dicendo, lo so che costano di più. E ognuno fa i prezzi sui, però tu dell'MB più 5 non te ne fai nulla, perché c'è la voce squillante, capito? I toni non ti servono a niente. Con l'MB più 5 dovresti tenerli chiusi, quindi ti va meglio l'MB più 4 che toni non ne ha. E ciao Riccardiccia. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, Brecco, c'è nessuno sul 10 per una prova? Attenzione Brecco 10, Brecco 10, attenzione Brecco 10, attenzione 10, 10, attenzione 10. Natalino, c'è qualcuno sul 10? Sì, Luca, fai il favore, dammi un controllo che ho cambiato un condensatore. Perfetto Fabri, perfetto, bella radio, bella. Sì, per adesso si presenta un altro difetto qua, porca miseria, si scalda l'altoparlante e non si apre lo squelch velocemente. E questo che cos'è? Boh, non ne posso più, no? Sti cazzi cicafusi, boh, non è possibile. Cicafusi, un casino Fabri, un casino. C'è da capire se c'è qualche funzione su questo qua oppure ha qualche altro problema. Beh, a parte lì non riesco a capire il motivo perché scalda così un altoparlante, come era mai capitato. Zio mollo e aspetti qualche secondo per togliere lo scudo, diciamo, per andare in ricezione. Ehi, ora un po'. Sì, vabbè, la radio adesso sta uscendo. Sì, sì, sì. Sì, si sta uscendo. Però il problema è che lo squelce, cioè, non è lo squelce, è delle, qui com'è, bisogna controllare la commutazione, mi sa tanto. Aspetta un attimo Fabri. Dai, ci sentiamo dopo magari Luca. Ehi, Fabri, dai, mi è venuto un amico che devo sistemare il telefono, capito? Dai, sono qua comunque. Eppure non ho mai provato l'Ecocast, ce l'ha mi qua. E provalo. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Però il parlascolta non c'è qua, qua. Carlo? E ci dovrebbe essere. Faccio. Oh, ecco. Guarda, c'è adesso. So. Sì, aspetta un attimo che metto le zitti, un attimo. Ehi, ehi, ehi, ehi. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. E avanzo. Marie, tu sei? Hola. Dice? Io ci sono, chi è? Dammi il controllo di radio. Radio buona, 5. Amplificata, eh? Insomma, sì. Guarda, metto un altro volume. Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Mi avvoglia, dai. Ok, Natalino, sì. Perché ci vede? No, si nota. E vai, che va a un cavadetto. Com'è la radio? Una bomba, fortissima, bella. Ho preso quel microfono là, di carne. Sì, la radio, bella, bella veramente. Allora, allora, sì, brava, brava. Ma ti sei comprato Saturnecco? Una camera ecco a parte. Facciamo un bel lì, giusto, va bene. Ok, ti ringrazio. Dai, con Rix devo più lo spinotto. Ma buon quel Rix allora. Allora, è tutto chiuso? Sì, sì, tutto chiuso, com'è? Cambio. Attenzione, Natalino, fa uno, se tu ascolti Luca, cambia, cambia. Gaba. Venga la radio vea che. Non so dove il parlascolta qua. Attento, Luca. A te l'ego. Luca. Aspetta un attimo, una tagli di secondi, eh. Ehi. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ci sono io. E allora, allora, Riccardi. Cappa. Ma non riesco a trovare il parlascolta qua. Il parlascolta per regolare l'eco. C'è anche l'eco qua, capito? Sì, vabbè. Sì, c'è Luca, però sta chiudendo un apparecchio. Oh, dimmi. L'omologato, perché? Ma non lo so. se c'è qualcuno. Ciao. E beh, già. Ma mi va cosa? No, ragazzi. Ma l'ha già spedito? Penso proprio di sì. Diciamo che magari se non ha avuto il tempo. Ci sono quelli cazzi che ti buono i 30 anni per finire. Una volta a me una cosa cazzo pensavo non mi arrivassi più. Poi si è scusato dicendo che aveva avuto da fare e che non aveva potuto andare alle poste e quindi me l'ha spedito un po' in ritardo. Luca. Gianni. Ehi, dimmi qua, ciao. Ciao, buongiorno. Sto andando bene, sempre bene. Certamente sì, questo è il capo. Si sente dallo stato. Il microfono è il K, il microfono sempre MC60, ma la radio non è il K, è il 950 AIS. Stanno andando bene quindi, no? Yes! Non riesco a cambiare la modulazione, tutti uguali ce li ho, porca troia. Chi è? Non si è uscito, chi è? No, non si è uscito di radio, chi è? Sei uscito già, ma tu sì? No, no, arriva 9.15 qua a casa. E anche qua più o meno siamo uguali. Non solo io, assolutamente no. Va bene. Quindi posso lasciarlo così, non devo aumentare niente, già, uguale al capo. No? E la modulazione è la tua questa qua, Claudio. Mi sa che hai intenzione di mettere portante questa. E a chilometro davanti a noi? Boh, sei 9.20 qua, tu cosa che portante metti? Batti tre colpi di Mike se non stai uscendo di radio. No, vedi, non è una persona che non sta uscendo di radio, è uno che vuole mettere la portante d'oro. No, ma non credo, dai. Ma batti un colpo se stai provando un microfono, dici qualcosa. Dai, non sta uscendo. E prova, cambia le connessioni. Chi sei? Sei Giulio? No, Giulio arriva più forte. Infatti anche a me arriva più forte. Gappa gappa, adesso stasera sistemiamo il Riccardino, no? Adesso ho portato l'MC80 a provare a Robby, che deve andare da lui stasera, perché io stasera alle 3 non posso andarci. Devo andare in ufficio, che devo venire a fare un'ispezione, e quindi ci devo essere. Vediamo come esce con l'80. Oggi propagazione ce n'è? E un pochino c'è, sì, un po' c'è. Ho visto nel 45 c'era Tiki Taka, sigaretta, Bosi. Cazzo, quello è Goto e Macubo. Che gusto ci fa dare Tiki Taka, sigaretta, Tiki Taka, sigaretta e basta, di zia. Ma non mi chiedi bombe forte a me. Ha detto Massimiliano che c'ha un impianto allucinante. Arriva 9.20, stava arrivando poco fa. Sì, che sicuramente c'ha un bel impianto, però... Cazzo, boh, cosa lo usa a fare? A dire tic-tac a cigaretta. Hai visto già il microfono della Gang? Guarda, l'ho collegato al DAC, gli ho fatto le connessioni. Ma è una cosa favolosa, mai visto, c'ha la regolazione del livello, no? Minimo e massimo nel piantone, in verticale. Uscendo sto adesso. Tartarino! Ehi, fai frutta, va a macchiarello, macchiglina a zero. Adesso sto uscendo, va. Beh, adesso sì. E anche tu, caro, controllo. Stavo regolando roba e mi è andato in macchina a zero. Tacca lì, cazzo, boh, non ti posso mollare da solo, cazzo. L'hai visto già quello delle game? Sì, li ho visti tutti, Claudio, ma li hai mandati tutti. Ma li hai mandati anche il primo piano. Sì che l'ho visto. È un bel microfono, almeno quello non è largo, dai. È tipo le BB più 5, così. Ma l'altro sono troppo umano, niente di riboni, ma perché tu c'è lo spazio, ma io qua non avrei il posto per metterli. Adesso bene va la situazione. Alla grande. Adesso sei tu, Tattarino. Sì, non credo. Bisogna imparare a conoscerlo, Luigi. Aumenta la materia, quanto ce l'hai? Ce l'ho a 2.5, mi. Sì. Aspetta, ecco. Però innesca. Così bene va. Alla grande, lascialo così. No, già, non è lungo, è largo, capito? È meglio perché ci sta molto bene. È un nuovo, c'è la TALOC, LOC, PTT, c'è tutte le scritte, molto bello. È di plastica però, non è di ferro. Di plastica? Sì, è una plastica dura, non è ferro già, è molto leggero. È molto leggero, l'ho attaccato adesso, ma davanti c'è bene col danno. Vabbè, ciò che interessa l'interno, è tanto. Sì, no, ma è bello, effettivamente è molto bello, non so se l'hai visto proprio, adesso ho cambiato tutto già. Il polmo è sopra il DAC, ho tolto il computer perché domani grava l'altra base. Già l'altra base, quindi ho iniziato già a sistemare la parte che mi interessa. Quell'altra la faccio appena arrivo alla base, ho già messo tutto per terra. Cava. Vabbè, ma cos'è che sta cercando Tonino? Un baracchino serio, base, oppure un veicolare tipo quello che ho preso io alla Marlon Brando? No, che okay, sta cercando oppure anche uno Iaeso, tipo quello di Lesci, di Retintino. Ah, sarei qua, dopo scemare in AM, dice, a scemare in AM. Le conviene adesso, amiche, trova... Chi è? Mi adesso le trova magari qualche offerta sui K, capito? Non glielo consiglio il 440 io. Se lui lo lascia fermo al 440, lo devo usare tutti i santi giorni. Non glielo consiglio proprio, è meglio un 140, un 430 se lo trova, ma il 440 poi... E chi glielo fa? E chi glielo fa? Lo so, adesso che è anziano è così, ma prima non penso che fosse quello il problema, adesso perché è anziano come età. Beh, certo, infatti io a Riccardino ti ho consigliato il 430. Ho consegnato il 430 perché è più affidabile, nel senso anche se lo lasci spento, no. Tu immaginati, è entrato Michele Falcuno, tu ricordi a Michele? Michele ci ha rimesso l'850 proprio da buttare, l'MK2G della Icom da buttare e un'altra radio quadribanda sempre digitali da buttare via, display completamente spento, uno tutto a righe, uno da buttare via. Irreparabili, ci aveva il 140, 5 anni dentro l'armadio, spento, assieme a quelle, attaccato il 140, perfetto, come che niente fosse. Vedi, perché è più che un baracchino, ma sono radio più forti, quelle più robuste, magari abbiamo fatto con più criterio, che ne so. Comunque in ogni caso hanno sempre i componenti che sono stati usurati, come questo, come il Galaxy, la stessa cosa. C'hanno i componenti usurati e praticamente prima o poi ti partono, c'è poco da fare. No, ma 140 è un trattore già, io ho una grossa esperienza di queste radio. Non c'è niente da fare, 180 e 680 io li chiamo baracchini a sintonia continua, la componentistica è meccanica, non c'hanno niente rispetto al 440, capito? Il 440 è un po' più a schede, è un po' più di componentistica, è fatto diversamente, capito? 140 e 680 ti dura netta metà, sono due convertitori, il problema è che lo devi accendere un po' prima per avere i watt giusti, però è un'altra guba, capito? Lo stavo dicendo Michele, dice qua, ci ho rimesso l'850, io quando lo dico la gente non mi crede, è 450 la stessa cosa, mi usa ben sì sia diverso. 450 se lo lasci fermo e non lo usi tanto tempo, non accende più, perché è tutta scheda, è un semidigitale, capito? Mentre il 430 e il 440 sono così, però il 430 è come il 140, tu lo lasci spento, io sera Riccardino prova questo microfono che gli ho mandato, se le va bene faremo delle prove. L'MC80 è un buon microfono, quello che c'è a lui fischia, fa, quello lì non fischia. Avanti Natali, cosa stai usando? La MB4. E allora? Hai fatto bene, non ce la rilasciava, vai da tiro. Ma giù lui, uno è dentro la scatola perché proprio non lo uso. Lo so, sei di fuori quanto ne ho io adesso. Di MP più 4 ne ho 2 e di MB più 5 ne ho 3. MB più 5. Poi ho 2 Turner più 3. Di cui uno è il Turner Expander 500, l'altro è il Turner più 3 normale, poi il Turner più 2 da tavolo. E già, quello che ti volevo dire l'altra volta non era l'Expander 500, lo Shooter. E io ce l'avevo lo Shooter, non mi ricordo a chi l'ho dato. C'avevo il più 2 da tavolo della Turner, il più 3, l'avevo tutti, però il Turner più 3 me lo devo buscare e torna. Mettono la Claudio. No, assolutamente no. No, perché gli ho fatto le connessioni per tutte le mie radio, quindi me li tengo, se li voglio provare li provo, capito? Poi adesso che ho spostato un po' di roba con l'altra base collego anche l'Expander 500 che è quello più grande, qua in questa base non ci sta, prende troppo spazio. Quindi li metto tutti già, li metto tutti, assolutamente. Vabbè, ma già si trova Natali, e già lo trovi, a futti di lì. Ed è lo Shure, già tu hai avuto lo Shure, c'è anche quello. Lo Shure, no, Expander 500, te volevo dire, l'altro giorno invece lo Shure è quello che hai avuto tu. Massimiliano, ce li hai un po' di microfoni, anche Turner, cioè, se magari uno te lo dà, neanche doppi. Non pensare che siano doppi quelli, sono serie diverse. Anche Walter ne ha tanti di Turner, sembrano tutti uguali, ma se vai a guardare non sono tutti uguali, eh. Sono le serie, capito? Se un collezionista li prende per le serie. Quindi, ad esempio io di MB più 5, ne ho due diverse serie uno dall'altro. Capito? Sono usciti a distanza di cose, ne ho due che non sono a norma CE, mentre gli altri due sono a norma CE. Sono diversi, capito? Hanno un diverso corso. Vabbè, prova a dirglielo se te lo dà, ma non penso. Uno ce l'ho io di Massimiliano di Turner più 3, però c'ha le connessioni a 8, che non ho capito. Io lo so. Basta tagliarlo lo spinotto e fargli la connessione a 4. Lo sai, lo collega già ai nobbi. E questo dovrebbe avere le connessioni a 8 perché c'ha l'up down, però c'ha il coso a 4, sono collegati doppi. E vabbè, siamo fare l'adattatore come ho fatto io connessioni non le tocco. Li ho fatti nuovi, ad esempio l'Expander 500 ho invertito il cavettino rosso col giallo per farlo funzionare sul Cobra e al DAC gli ho messo il Turner più 3 che c'aveva le connessioni sue. Qualcuno l'ho invertito ma qualcuno era giusto, mentre quelli a 8 li lascio per i K per provare con i K, intanto cosa serve? Se lo devo provare con i baracchini c'è l'adattatore da 8 a 4 che mi aveva fatto Luca, ma anzi me l'aveva dato Luca che era quello che usava lui col 140 l'MB più 5. E infatti non ci vuole niente, c'hai quelli invertiti. Devo buscarmi il cavo schermato perché le faccio bene adesso le cose. Natale, guarda, quello che ha fatto Fabrizio, gliel'ho comprato io il capo, gli ho portato tutto il materiale io perché Massimiliano stava lavorando. Quello che ha fatto Fabrizio Massimiliano, l'MB più 5, è cablato alla perfezione. Cioè tu l'attacchi ed è un MC60, già l'avete sentito, ve l'ho fatto sentire, capito? Perché c'ha il cavo schermato a 8, con dentro proprio la schermatura, perché l'ho preso buono, ne ho preso un metro da fusare.